Εσύ ερωμένα αγαπάς τι σχέσεις. A tutti i vasciatori genuesi, senza una nuvola e senza bis. Purtroppo spalancati tutti i chies, o tempo si è rubato un altro mese, e non ti è asciuto manco vespes. Carni creature rirana, pazzina con faccio sola, felice va giornata e fest, e tutta vita che le rest. Lasciami tornare per un momento, in tuo pensiero che non da tormenta, quando ci bastava poco per ci trovare. Fammi ricordare che cose niente, che ci va poco per ci fa contente, tieni a stritto tutto bene. Mirades que desconeixes i que no saben a qui més hauran de mirar, i és que els ulls se'ls aniran. El barri valorant a roba estesa, la canalla ja és alerta, recolliu-vos per sopar. Ja somiquen les criatures que van abraçant la lluna, són felices per la festa que hi ha la vida que els espera. Deixa que ara torni aquell moment que volàvem sense treva, quan érem tan fàcils de trobar. Fes-me recordar el que val la pena, amb poca cosa la vida és serena, no deixis anar el més important. Lassa'm sentir com cor canta quan assomava que conta ens va fermar. Domenica, questi erano i Foia, che abbiamo il piacere di avere qui in diretta telefonica con noi. Appunto, sono un gruppo musicale folk rock italiano capitanato da parte di Dario Sansone, che è al telefono con noi. Ciao Dario. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Anche a te. Allora, volevamo farti una domanda di carattere generico, diciamo. Come e quando nascono i Foia? I Foia nascono nel 2006. È il come di tutte le band che partono dai garage, dalle prove e dagli incontri nello stesso rione, nello stesso quartiere. Certo, quindi vi siete conosciuti da ragazzi, avete iniziato a suonare prima cover band, sì, e poi... No, direttamente con degli inediti, perché ognuno di noi veniva da esperienze differenti. Ah. E quindi ci siamo conosciuti in giro per sale prove e poi abbiamo deciso di unirci, anche perché all'epoca la band era composta da altri elementi. Attualmente solo io e il batterista siamo rimasti di quella prima formazione, sì. E insomma, con l'intento comune di fare una musica che ci facesse stare bene e che potesse far sta bene gli altri attraverso la sincerità e soprattutto l'utilizzo della nostra lingua, del dialetto napoletano. Ecco, il vostro nome Foia, che significa? È un termine dialettale che però diciamo è ambivalente. A Foia a Napoli serve a indicare quando i ragazzi sono abbastanza irrequieti, sono infoiati, sono molto energici. Certo. Quindi è una derivazione comunque latina come termine. Ma infatti infoiati effettivamente, perché? L'abbiamo già sentito come termine, è diventato un po' nazionale, però non pensavamo che derivasse proprio da un termine napoletano, foia. Esatto. Non lo sapevamo. Guarda, in realtà di solito si dice a un ragazzino, si dice tiene a foi in tomate, significa c'hai il peperoncino nelle... non diciamo dove. Vabbè, però il culetto si può dire. Va bene. No. Sì, sì, esatto, il diminutivo vezzeggiativo si può dire. Sì, perché è riferito comunque ai bambini, quindi... Certo. No. Esatto. Senti Dario, invece sabato ci sarà l'ultima tappa del vostro tour italiano che è iniziato lo scorso 7 settembre e ospite d'eccezione per le prime tappe è stato Sean Ferguson. Com'è nata la vostra collaborazione e com'è stata questa esperienza? Ma noi è da un po' di tempo che stiamo operando nella direzione del recupero internazionale della nostra lingua e dello scambio. Dopo varie collaborazioni con altri artisti spagnoli, francesi, statunitensi, ci siamo incontrati con Sean Ferguson, che in realtà ho cercato proprio su Spotify, me ne sono innamorato e abbiamo contattato attraverso il nostro management. Bello. E poi l'abbiamo spostato qui a inizio anno per registrare assieme Ensemble, appunto, che è una canzone metà napoletana e metà francese, che è la lingua più diffusa in Canada. Sì. E poi l'abbiamo portato con noi in tournée a respirare anche un po' del pubblico italiano, e a breve lo rincontreremo, perché noi saremo in tour in Canada per un mesetto, a partire dal 10 ottobre, e quindi... Infatti volevamo chiederti proprio di questo, perché Sean appunto è canadese, quindi avendo in programma ad ottobre questo mese di tappe nella sua terra natia, immagino che insomma sarà un'esperienza simile e diversa contemporaneamente, ci sarà una fusione di culture esattamente come c'è stata qua, ma magari là dove appunto c'è la sua terra sentirai più, non lo so, freddo sicuramente sentiremo più freddo, però proveremo a portare il calore da qui, che tra l'altro oggi a Napoli fa un caldo, non so da voi. No, anche da noi è una giornata abbastanza soleggiata, strano per la pianura padana, che di solito è una coltre di nebbia fittissima, ma diciamo che questo fine settembre ci sta regalando delle giornate ancora, gioiose, per ora. Ancora luminose. Bene, bene. Certo. No, insomma, sì, comunque tornando a discorsi diciamo di natura artistica, noi andremo sicuramente a portare la nostra esperienza musicale, le nostre radici miscelate alla contemporaneità delle nostre canzoni, e quello che ci aspettiamo non so proprio dirtelo, perché sicuramente abbiamo anche tanti incontri con altri musicisti, perché saremo in giro anche per festival, e sarà bello poi riportare anche in patria quello che si vedrà fuori, no? Noi abbiamo fatto già un tour europeo che ci ha trasformato nella visione quantomeno della differenza di come si suona fuori dall'Italia, anche una cosa banale, rispetto agli orari, solitamente almeno nel sud Italia si finisce di suonare in orari tardissimi, si comincia tardissimo, mentre in giro c'è un rispetto anche per il pubblico, che magari ha la possibilità il giorno dopo di andare al lavoro, perché i concerti finiscono in orario umano. Certo, e non iniziano in ritardo. No, assolutamente. Ma è anche il pubblico che è educato e quindi arriva puntuale ai concerti. Questo permette anche di suonare tutti i giorni della settimana, rispettando anche le abitudini del pubblico. Quindi rispetto per il pubblico, ma anche una fortuna forse per voi musicisti, che potete insomma non fare ore tardissime. Ed è proprio questo il punto, nel senso che noi abbiamo fatto 10 date in 11 giorni in giro per l'Europa, prendendo aerei di continuo, ma non ne ho sentito il peso. A volte è peggio suonare in Campania, che magari torni alle 4 di mattina, scarichi, il giorno dopo devi andare in un altro posto sempre della Campania, ma comunque diciamo la stanchezza si sente il doppio quando non hai la possibilità di riposare per bene. Certo. Senti Dario, c'è in programma un nuovo disco? C'è in programma un nuovo disco, ci sono delle canzoni che vanno coccolate, arrangiate. Io ho scritto una ventina di canzoni e vedremo dove ci porteranno. Sicuramente per il 2020 usciremo fuori con qualcosa di nuovo. Beh, siamo curiosi di sentirlo, quindi magari ci risentiremo proprio noi esattamente per proporlo agli ascoltatori. Sicuramente ritornerai ai nostri microfoni. Noi adesso ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità, la tua simpatia. Grazie a voi. E ti diamo nuovamente appuntamento per l'appunto su 103.1 di Radio Città Fucico. E niente, grazie e in bocca al lupo per il tour in Canada. Grazie, grazie Crepi. E un saluto a tutti gli ascoltatori. Buon proseguimento. Grazie, grazie. Dario, ciao. E noi invece ci ascoltiamo l'ensemble che ha citato lo stesso Dario con un featuring con Sean Ferguson. Non sa che pensare.